spaventa niente da qui a sempre. Non è permesso, qualcuno non consente. Mi arrivano chiamate da un call center. Sto terminando tutte le mie riserve. È la calma la prima cosa che si allontana. Non riesci a tenerla ferma e plana. Ti tiene sulla grana. A volte qualcosa si rigira, la vedi strana. L'Italia ha la forma dello stivale, che continua a tirare calci che fanno male. Gente che non scende e chi mai sale. Chi invece non ne vuole neanche più sapere. Se ti fanno una domanda, tu pensa e rispondi. Perché molta gente è di altri mondi. Sto raccogliendo le briciole sui fondi, in compagnia di troppi esseri immondi. Non spreco niente, almeno questo penso. Ma nella testa non ho niente di denso. Alza i volumi perché io non ci sento. Salve, sono Davide, oggi mi presento. Sbatte la finestra, ma è colpa del vento. È tutto tranquillo, ma resta sempre attento. Non è tutto oro, molte volte è argento. Tu non lo sai cosa combinano là dentro. Dovresti vincere almeno la lotteria per andare veramente via. Dovresti ereditare una gioielleria, prendere tutto, lasciare la scia. Dovrebbero regalarti un'intera via, anche per te una stella che brilla. Per partire basterebbe una scintilla, ma a volte ciò che manca è proprio quella. Questa è la tua tela che stai dipingendo. Pensi che ogni giorno stai crescendo. Se ascolti bene c'è il rumore nel silenzio, quando svolgi attività senza un consenso. E mentre passano i troppi giorni, vedi che ti riposi ma non dormi. Dietro di te girano già dei corvi. Pensavi veramente di essere libero? Avresti mai saputo di restare in bilico? Tra il bene e il male c'è solamente un vicolo. Quando ci passi non te lo dicono, perché sono tutti più cattivi. Mentre cammini non li schivi, occhi bendati e veloce ti sbrighi. Non conterai mai quante volte ridi. Ci vorrebbe una donna che ti mantiene, qualcuna che abbia sangue blu nelle vene. Sfruttare la situazione che conviene, nascondere i soldi sotto un metro di neve. C'è troppo sole e non riesco a vedere. Ho poco petrolio e non posso viaggiare. Troppi tafferugli da sistemare, la trama si continua a intrecciare. Ti rapiscono la mente e garantiscono, ciò che ascolti è solo un fottuto disco. È tutto riciclato, più niente di fresco. Se c'è una festa è il momento che non esco. Quanti tiri fai senza fare canestri? Sono gli altri che lo fanno, tu non investi. Tieni dentro parole che forse diresti. Nascondi la bestia che da sempre detesti. Non è semplice controllare la situazione. Ciò che non aspetti si nasconde come. Prende le sembianze che vuole. Pensi solamente di essere il migliore. Non vai lontano, cammini col trattore. Sai, non può bastarti solo il tuo sudore. Cambi mentalità solo con poche ore. Per ogni operazione sei quasi un dottore. Fai rumore, scivoli sullo specchio. Nessun progetto per quando sarai vecchio. Non aspettare che si ristringa il cerchio. Recupera le cose buone dentro al secchio. Tu non sei peggio né meglio di nessuno. Non sei ultimo, non sei numero uno. Solleciti sempre però qualcuno. E parli a voce alta ma dall'oscuro. Pensavi veramente di essere libero? Avresti mai saputo di restare in bilico? Tra il bene e il male c'è solamente un vicolo. Quando ci passi non te lo dicono, perché sono tutti più cattivi. Mentre cammini non li schivi, occhi bendati e veloce ti sbrighi. Non conterai mai quante volte ridi.